12 milioni più pazzi di tutti, e dice no, noi rimaniamo qui e voi dovete mandare via il Vaticano. Grazie mille davvero. Il nostro cuore nordico si sta sciogliendo. Tantissimi auguri alla Radio Onda Rossa. Io vi conosco da 82, quindi da 35, i primi 5 anni in cero, però comunque auguri. È così antico, è così tanto tempo che viene la radio, pensavo che funzionassero i piatti. Penso, è una cosa, uno scherzo. Quali alle ore 21 anche per oggi, primo dicembre del 2021. Prova tecnica di trasmissione fino alle 22.30 circa e forse qualche minuto in più, approfittando della assenza dei 25 o'clock che tornerà prossimamente. 0649 1750, contatto telefonico, sito internet www.ondarossa.info. Sul sito della radio si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione per Radio Onda Rossa, modalità elettroniche o meno, non ultimo il fatto di arrivare qui in radio e conoscerci direttamente. Una girandola di saluti, iniziando con Gianluca Becuzzi, Lucia Cagliazza di Lupsi, Maia Nicolocci in Sardegna, Laura Spirit Crusher, Cecilia Miradoli di Pindar, Alberto Clipper di MDMA, Alessandra qui a Roma al pari di Giulia e Serena. E poi Rosa La Vita in Emilia Romagna, Isetual in quel di Milano. Dario Righi e Sera Capofontana di Progetto No Name, Jean-Claude Oberto in Val d'Aosta. Cominciamo la serata con il nostro viaggio che facciamo da parecchie settimane in quel dell'India, sfruttando la compilation di Raffaele Pezzella, questa Anthology of Exploratory Music from India, Indian Music Survey, omaggio e compendio alla scena sperimentale sotterranea indiana con artisti sconosciuti a tutti noi, ma che Pezzella ha avuto l'abilità di scovare nei meandri di quelle terre meravigliose. Compilation varia, con atmosfere diverse tra di loro, e per cui questa sera ci andiamo ad ascoltare Bidisha Das con Dure Far Away e Debashis Signa con Rig Veda 00003. breathed by the people's strength, strong in the words that comes through the stones and all. The Soma with heroes call them both of the mighty sage, Tao who lives the worlds of the mothers. Five, the strength of the song, the Marats who worship the conquering Kosa, still we seek the bolt of heaven. The visible, the sky, the spoil of the 15. Strong in the sea, these arms who worshipped with strong in the waters, 9. They've been loved hath looked to the worshipper strong, who in the streams of the wood for heareth the wealth who with the band, the Marats with the pleasant comes, Asvins, with the strength and common men, the offerings with the Rudra established, XXXV. He who is power and strength that sacrifice for Indra and Agni, Tao active as the waters fast of the sacrifices, and with the sacrifice, the Marut who is our strength, the streams of the strong, the Marut, the strong is Antari, the sacred grass. Five, the gods may the true thou bearest the son of Soma juice, breath the pressest of the streams of mankind, the priest, the worshipper. Him XXXV, Indra 1. Soma Bhavmana 1. XXV. XXXV. Indra 1. XXX, Agni 1. EII Indra 319. WHO travels and led the sea of the mountains and light of strength, the self with his sea not come to the singer's wisdom, to ease the gods, or ignite, with the press of strength the gods vow the knowledge of the steeds, shining wind the bright of the realm of the gods, the waters as a stronger now. The gods, the golden hath great Marat splendor, the gods thou who seeks the boat of the Aditya's, to the heart of all living complete him, Indra in the world of the ones. Indra one. He drops and comes the singer's store of the gods with lovely realm that's beautiful with his greatness, ten when he spreads the lover of the world of the sacrifice. Viaggio dunque nell'India sotterranea di questa compilation della Nespresso Sounds Group Production. E gli esponenti di questa sera erano rispettivamente Bedisha Das e Damascus Signa, tra emanescenze e scricchiolii sinistri. Due ulteriori testimonianze della validità della scena indiana. La prossima settimana ci andremo ad ascoltare le due tracce conclusive di questa compilation. Saluto appunto Like Wake qui a Roma. Valerio Michetti della Grazia Obliqua e del suo nuovo progetto Fade to Grace, progetto techno. Vado a risalutare Gianluca Becuzzi e Marco Milanesio di Disordine. Una buona sera anche a lui. Sentite la varietà veramente di questo compendio. Questo è l'artista successivo. Fields Recording, come si suol dire. Questo era Varun Desai, che ci ascolteremo appunto mercoledì prossimo. Arriviamo qui in Italia. Cautionary Tales, ultimo lavoro per Simon Balestrazzi, un riferimento importante della Italia più avanti nella musica. Tante collaborazioni, tanti album per lui da 30 anni e più. Questa sera ci andremo ad ascoltare un brano che sarò costretto a dividere in due parti perché dura quasi 17 minuti, per cui questa sera la prima parte di Last Feast of an Anonymous Trinity. Manipolazioni, loop creati da Simo Balestrazzi, da questo Cashionalità AIDS, è un lavoro del 2020. tante collaborazioni per lui, dicevo, Hidden Reverse, tomografia assiale computerizzata, Candor Chasma, Killian Camera e molti altri. Peraltro, giustamente il buon Becuzzi mi corregge, Simo Balestrazzi in realtà è emiliano di nascita ma vive in Sardegna da molti molti anni. Becuzzi stesso ha vissuto in Sardegna per un po' e proprio Becuzzi andiamo a sentire ora, accomunati anche da Balestrazzi per quanto riguarda l'ultima uscita di Gianluca Becuzzi, accomunati con Balestrazzi, dicevo, attraverso la etichetta discografica Standa, affiliata alla Silentes. Saluto anche Flavio Derbecante di Noise Cluster. Enrico Ponzoni di Soconscio Buzzo Project insieme a Massimo Mascheroni. E quindi torniamo a Gianluca Becuzzi e alla sua ultima fatica che porta il nome di Mana. Il disquisire sullo sciamanesimo, l'artista come sciamano, è una tematica che, come molti sanno, è assai cara al nostro Gianluca Becuzzi ed è confermata in questo suntuoso doppio CD tra ambient, noise, doom e un interessante uso della chitarra molto particolare. For Modern Atavism è la traccia di questa sera. Eccellente il ritorno di Gianluca Becuzzi, peraltro già l'anno scorso ci ha deliziato con tre lavori, quindi artista diciamo anche stacanovista se vogliamo. Quest'anno ci ha donato questo Mana, questo doppio lavoro oscuro, ritualistico, lugubre e interessante anche l'uso della chitarra, elemento direi importante, elemento fondamentale di questo Mana. Intanto saluto anche Maria qui a Roma e Wurnus Island, l'industrial di scuola piemontese, il valoroso industrial piemontese di Wurnus Island. Ci siamo dunque soffermati su due esponenti storici della scena sperimentale italiana, Simon Balestrazzi e Gianluca Becuzzi. E ci spostiamo adesso da un artista relativamente più recente, sto parlando di Stromboli. Stromboli che va a parare invece in un versante più affine all'EDM, all'ambient, alla scomposizione del suono. Exiles è questo 5 tracce che esce per la Deft Records di Londra di Alessandra D'Alesio e sta per partire Alterations e poi Escapology. Lui è Nico Pasquini, al secolo Stromboli. 5 tracce ideato a Bologna nell'inverno dell'anno scorso e stampato quest'anno con la Deft Records, etichetta londinese di Alessandra D'Alessio. Un ideale percorso che parte dalla Warp di Sheffield, ovviamente famosa per Aphex Twin, Borzo Canada, Autecre e tanti altri artisti, per arrivare a un altro grosso personaggio che risponde al nome di Alvanoto. E quindi anche Stromboli lo osserveremo nelle prossime mosse. Queste settimane abbiamo omaggiato i Coil, come ogni novembre. Ricordiamo la morte di John Balance e Peter Christofferson in questo mese, il primo nel 2004, il secondo nel 2010. E quindi abbiamo ritirato fuori del materiale d'archivio attraverso la collana Threshold Archives. E abbiamo qui Coil, un album che contiene oltre che, anzi scusate, si chiama Panic ovviamente dei Coil, che contiene Panic in versione originale, ma anche tante tracce inedite o remixaggi di altre e altre ancora contenute in compilation sparse qua e là. Questa sera ci andremo ad ascoltare Ice e Tainted Love, però in una versione più casalinga, più artigianale e con la voce di Peter Sleazy Christofferson. England. Tears, and that's not nearly.